Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Abbiamo parlato nelle scorse puntate di come sia possibile riciclare il calore di scarto prodotto nei processi industriali all'interno dello stesso processo produttivo. Per esempio, se si ha del vapore è possibile utilizzarlo per preriscaldare quella stessa acqua che poi verrà trasformata in vapore. Questo se le temperature in gioco sono relativamente basse. Se invece si ha a disposizione una fonte di calore ad alta temperatura, può valere la pena di seguire un'altra strada, ovvero quella della produzione di energia elettrica. È infatti emerso più volte durante le puntate di Mr. Kilowatt come questa sia una forma di energia più pregiata e quindi sia certamente utile non sprecare questo tipo di opportunità. Ne parliamo con due ospiti dell'Università di Brescia, il professor Lucio Zavanella, docente di impianti industriali meccanici. Buonasera Zavanella. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Ecco, l'altro ospite è il professor Costante Invernizzi, che invece è docente di macchine a fluido e sistemi per la conversione dell'energia. Buonasera Invernizzi. Buonasera. Zavanella, io comincerei da lei. Facciamo un rapido quadro di quali sono intanto le industrie che possono essere interessate da una simile opportunità. Immagino siano industrie che producono calore di scarto, però a una temperatura abbastanza alta. Esattamente, diciamo che i settori su cui abbiamo posto la nostra attenzione sono quei settori che sono caratterizzati da un'elevata intensità energetica e principalmente sono in grado di garantire anche una certa continuità nella produzione di questo calore di scarto, diciamo, di questo. D'accordo. Proviamo a fare qualche esempio quindi di settore proprio. Ma pensando al nostro territorio, quello della nostra università, sicuramente abbiamo il settore siderurgico e il settore dei metalli non ferrosi, quindi raffinerie di metalli non ferrosi. Successivamente si può anche pensare ai cementifici, sicuramente, sì, alle vetrerie, a raffinerie per quello che riguarda il settore chimico. Poi non c'è da dimenticare quelli che sono le biomasse, quindi oli vegetali piuttosto che la biomassa tal quale o comunque pretrattata, e ultimamente c'è anche una certa attenzione per impianti a biogas, certo, sempre certo, diciamo, nel settore agricolo. D'accordo, dunque Invernizzi, abbiamo appunto accennato a questa misteriosa tecnologia. La tecnologia si chiama ORC ed è indiscutibilmente una delle più efficienti, o se non la più efficiente, per questo tipo di applicazioni. ORC sta per Organic Rankine Cycle. Ci spiega di cosa si tratta? È un motore che effettua una conversione termodinamica dell'energia termica in energia meccanica. Conversione termodinamica vuol dire che facendo percorrere al fluido di lavoro un ciclo termodinamico, senza poi entrare nei dettagli. Ecco, si può trasformare calore in lavoro meccanico. È a combustione esterna, nel senso che il calore che viene trasformato in energia meccanica deve arrivare dall'esterno. Dall'esterno. A differenza, per esempio, di un motore diesel 8, no? Certo, un motore a scoppio, quello che abbiamo tutti nel cofano dell'automobile, per esempio. Invece lì l'energia termica si libera direttamente all'interno del motore. Senta, una delle caratteristiche fondamentali è l'utilizzo di un particolare liquido, un fluido cosiddetto organico. Perché questi fluidi sono superiori o comunque preferibili, per esempio, all'acqua? Che caratteristiche hanno? Diciamo, la differenza che fa scegliere un fluido piuttosto che un altro è legata sostanzialmente alle diverse caratteristiche fisiche che si riflettono poi su un diverso comportamento termodinamico. Mm-hmm. Consideriamo l'acqua, no? Per far evaporare un chilogrammo di acqua a 100 gradi serve una quantità di energia termica che per esempio è 40 volte superiore a quella che servirebbe per far evaporare a 100 gradi un chilogrammo di freon 12. Il freon 12 è un vecchio fluido refrigerante che ci dà. E quindi il risultato è, se ho capito bene, che quei cicli termodinamici che con l'acqua richiedono temperature piuttosto alte si riescono a realizzare comunque con questi fluidi anche a temperature più basse. È sì, corretto? Diciamo, detto meglio, possiamo dire che per tutte queste cose alla fine la tecnologia del vapor d'acqua fornisce buone prestazioni solo per potenze elevate più che per temperature. D'accordo. Cioè, il vapor d'acqua funziona bene per potenze elettriche, dico, superiore a qualche megawatt, ecco. Quindi diciamo, quali sono le potenze che tipicamente si riescono a tirare fuori da questi sistemi ORC di cui stiamo parlando e quindi queste applicazioni in cui si recupera il calore di scarto? Ecco, le potenze tipiche, diciamo, sono le più varie, però diciamo da un megawatt in giù. In giù. Sono macchine che funzionano tipicamente intorno al megawatt, ci sono macchine che forniscono anche qualche kilowatt, quindi mille volte meno. Ecco. Certo. Quindi queste macchine permettono un ampio spettro di potenze utili. D'accordo, torniamo a lei Zavanella, proviamo a dare velocemente dei numeri, tempi di payback più o meno? I tempi di payback, per esempio impianti a biomassa, in base al costo della biomassa possono essere dell'ordine di 2-3 anni e naturalmente spingersi più in là anche sui 7-8 anni in base per l'appunto al costo della biomassa. Per esempio un caso molto interessante può essere quello delle acciaierie, dove invece ci sono dei fumi che escono a temperature particolarmente elevate dai forni, queste temperature devono essere abbattute e tutto questo calore naturalmente potrebbe essere recuperato proprio per alimentare un ciclo RC. D'accordo, va bene. Grazie Invernizzi, grazie Zavanella. Grazie a lei. Grazie a lei. Bene, domani ultima puntata del ciclo di Mr. Kilowatt dedicato al risparmio energetico. Cercheremo con i nostri ospiti di tirare un po' le fila, le conclusioni di quanto abbiamo imparato in questi ultimi mesi. Dalla settimana prossima Mr. Kilowatt però torna per iniziare un nuovo viaggio, questa volta nel mondo delle rinnovabili. Buona serata da Maurizio Melis.